Ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi d'astinenza. Il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni, insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Io vi chiedo aiuto perché nel mercato che sto vedendo e leggendo non capisco veramente nulla. 800240024, so che i nostri ascoltatori sono dei grandi esperti. Ufficiale l'arrivo di Llorente alla Juventus a luglio. Juventus scatenata che vuole anche Lisandro Lopez, quindi vuol dire che i quattrini ce li ha. Il Milan va in giro a chiedere prestiti a tutti, ultimo quello di Balotelli al Manchester City, ricevendone in cambio una risata e una sportellata sul naso. Vi dico, mercato per me sempre più incomprensibile, quindi mi arrendo. Pertanto oggi mi sarei portato il famoso fiscalista. No, non è vero. Poi vi dico chi è, un nostro amico. Ma intanto cominciamo a capire o a provare a capire che cosa sta succedendo. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Io sono sempre molto grato al Milan, però c'ho un contratto con il Real Madrid. Ma il Real Madrid sembra che ti possa lasciare in prestito, Ricky. Non lo so, che loro si mettono d'accordo. Senti, andrai a trovare il Milan. Non è una situazione piacevole. C'è un principio di ironia. È saltata la trattativa un'ora fa perché in effetti Kakà ha fatto tutti gli sforzi possibili e immaginari e questi problemi della fiscalità hanno indotto il Real Madrid a stoppare la trattativa. Sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai di me. Ragione, non coglioniamo, va. Cioè tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, va, non scherziamo, va, dai, per piacere, va. È poco, e poi sa, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse, non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse è tasse? Tasse, ma signore, ma che sta succedendo? Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Ca tasse non se ne pagano, caccio. Anche mentre guardo il mare, mentre lascio naufragare. Quando un paese paga il 24% e un altro ne paga il 47-48%, bisognerebbe chiedersi se è normale così, ma evidentemente è normale così e quindi non c'è più niente a fare. Quante cose che non puoi. Gli ostacoli del cuore, come siamo romantici oggi. 800240024, vi supplico, tutti convocati, datemi una mano a capire questa enorme bugia del mercato. Marco Belinazzo dal Sole 24 Ore, fai la faccia da fiscalista. Non ce l'ho la faccia da fiscalista, anche no. Perché guadagnerei di più, molto di più facendo il fiscalista al giorno d'oggi. Allora, mercato sempre più incomprensibile. Beh, un mercato... Perché ovviamente si fanno nomi grossi, si spara alto, poi alza il dito il fiscalista, o alza il dito in questo caso Silvio Berlusconi, che ha appena detto che operazioni come quelle di Kakà e Balotelli sono irrealizzabili in questo momento, l'ha detto pochi minuti fa. Il Milan cerca quasi a caso un colpo da copertina, però Kakà costa tutto sommato una quarantina di milioni, correggimi se sbaglio. Balotelli, il Manchester City, gli è stato chiesto un prestito, si è messo a ridere e ha detto costa 25 più l'ingaggio, che è altissimo. Drogba, che comunque è un giocatore che può ballare certe note di Champions League, ma è un giocatore su cui dovresti investire 20 milioni lordi per un anno e mezzo. Sono tutte cose senza senso, no? Oggettivamente sono senza senso. Cioè, c'è un'attenzione mediatica sul mercato negli ultimi anni in Italia, che purtroppo è coincisa con la fase in cui le squadre italiane non possono acquistare. Sì. E quindi c'è la necessità dall'altro dei media di sparare grandi nomi o di tenere vive certe piste, e che poi si scontrano con il dato economico, e cioè col fatto che si è speso tanto in Italia negli anni passati senza investire adeguatamente, e ora certi cartellini o certi ingaggi sono inavvicinabili per i club italiani. Solo per i giornali valgono. Per i giornali valgono perché, come dire, si cerca... Io non credo che si inventino delle trattative, ma si cerca di soffiare sul fuoco quando c'è un piccolo interessamento, si cerca di farlo diventare qualcosa in più, nella speranza che magari accada il miracolo, ma poi arrivano i revisori dei conti o i fiscalisti, alzano la manina, e anche una squadra... Scusate. No, ma anche una squadra come il Real Madrid, che è la prima in Europa per fatturato, che produce utili, oggi deve stare attenta, e quindi magari delle operazioni molto generose come un prestito gratuito al Milan di un giocatore che non utilizza, che qualche anno fa avrebbe fatto senza pensarci troppo, Florentino Perez ora queste operazioni non le fa più. E poi guardiamo, diamo un'occhiata a questo ranking dei fatturati, dateci una mano anche voi, 800 24 00 24. Intanto il Milan sta per scambiare Mesba con Zaccardo, quindi non si parla certo di Drogba o di Kakà, però queste sono in questo momento le operazioni possibili, le operazioni raggiungibili. Io mi ricordo Savia Iacobelli che salvò tutto sport inventandosi la formula del mercato in prima pagina tutti i giorni. Però erano tempi in cui giravano soldi e nomi. Soldi, giravano plusvalenze e quant'altro. E allora li valeva tutto, e allora la gente... Oggi sento parlare in trattative di mercato, e confesso la mia profondissima ignoranza in materia, di nomi di ragazzini che giocano dall'altra parte del mondo, magari bravissimi, però mi sembra che il mercato sia sempre più qualcosa per addetti ai lavori, per esperti, per malati di calcio, per gente che passa le notti su YouTube a vedere qualche immagine di sti giocatori molto misteriosi. Tutti convocati. Sono contento di essere convocato. Perfetto. Grazie. Certo. Tutti convocati, Francesco da Taranto si è convocato ieri, avevamo promesso che sarebbe stato il primo di oggi, e noi le promesse le manteniamo, mica come altri che promettono acquisti che poi sono irrealizzabili. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore è qui con me, nei panni di fa la faccia da fiscalista ma non gli riesce. Francesco da Taranto. Buonasera, sono contento di essere convocato, mi autoconvoco ogni giorno, figlie permettendo, diciamo. Si convochi tutte le volte che vuole. Sono contento anche di non essere stato convocato ieri, perché avete dato spazio al tennis femminile, essendo una delle due tenniste Roberta Vinci di Taranto, non può che far piacere una volta tanto. E oggi lo rifaremo, faremo il bis aspettando questa notte. Una volta tanto non si parli di noi solo in termini di Ilva, di veleni, ma... Certo. Di una terra che è capace di esprimere campionesse. Certo. Ma non è quello il punto. Io volevo intervenire sulla questione ciclistica. Sì. Diciamo, sono un grande appassionato di ciclismo e ritengo che il doping sia il ciclismo come il finanziamento illecito, diciamo, ai partiti politici. Noi proverò, diciamo, nel tentativo di riabilitare Armstrong, che peraltro mi era anche antipatico. A me nel no. senso che se noi A mettiamo no. in discussione le vittorie di Armstrong, dobbiamo farlo per tutti. A partire infatti... da Coppi, Merckx, passando per Moser e Pantani, perché tutti, in tutte le epoche lì, più o meno hanno fatto ricorso, diciamo, al doping, chiamiamo così. Qui dobbiamo mettere in discussione. Poi io volevo farle una domanda. Sì. Lei crede veramente che imprese come quelle di Bolt o di tennisti come Nadal siano tutte farina del loro sacco? Senta, Francesco, per non parlare io... del pianeta Cina o della Spagna io o di nostre vittorie nel passato nel nuoto, Francesco, o nello schi da fondo. Io ho smesso di credere a Babbo Natale qualche mese fa, però possiamo tenerci tutti i sospetti che vogliamo, insomma. Possiamo tenerci tutti i sospetti che vogliamo, ma valgono come sospetti, quindi fino a quando non abbiamo le prove, fino a quando qualcuno non viene preso, fino a quando qualcuno non viene in maniera inconfutabile condannato, come è il caso di Lance Armstrong. E ripeto, per uno che faceva il tifo per lui come fenomeno dello sport, come personaggio che mi emozionava, ecco, vederlo in faccia dire quelle cose che pure conoscevo è stato scioccante, triste, sì, farabutto, bastardo, quello che volete, però è stato scioccante. Quindi io guardo quelle sette croci nere sull'albo d'oro di un Tour de France al quale, insomma, che è stato spezzato e non si sa bene da dove si possa ricominciare a contare vittorie pulite e quando si potrà cominciare a ricontare delle vittorie pulite. Purtroppo per me è un momento di grande tristezza da questo punto di vista, al di là della rabbia che poi posso provare. 800240024 è il numero verde e siete liberi di fare qualunque intervento. Prima di Daniele da Pavia e Paolo dalla provincia di Perugia, io vorrei che Marco Berinazzo mi spiegasse questa cosa. Ma il Milan, allora, la situazione del Milan: non ci sono i soldi e si cerca un colpo ad effetto molto costoso. Kakà, abbiamo detto quanto può costare l'operazione, circa 40 milioni. Balotelli 25 per il cartellino più stipendio. Drogba, che ripetiamo è un giocatore in là con gli anni e che è un giocatore come dire, con cui puoi ballare nelle notti di Champions League, ma non è ormai non è più un giocatore su cui costruire una squadra. Tra l'altro va in controtendenza con la ricostruzione di un Milan di giovani. Avrebbe un senso certamente Balotelli in questo tipo di ricostruzione, ma costa una montagna di soldi. Perché si continua a parlare di questi giocatori al Milan? Credo che ci sia un cortocircuito mediatico tra l'esigenza comunque di far capire ai tifosi che c'è una vitalità nella società, che c'è un futuro immaginato, senza avere il coraggio magari di insistere su una linea che è stata intrapresa già da alcuni anni, non solo da quest'estate, cioè di puntare sui giovani, di abbassare il tetto degli ingaggi e di ridurre quel deficit che nel 2011 era di circa 70 milioni, di portarlo quest'anno verso il pareggio di bilancio per presentarsi poi l'anno prossimo alla UEFA con un bilancio in linea con i parametri del fair play finanziario. Quindi questo è tutto fumo negli occhi? Molto probabilmente sì. Io ho scritto poco prima che iniziasse il calciomercato che c'erano due o tre squadre che potevano spendere in Italia. Le due che potevano spendere perché avevano dei soldi in tasca erano il Napoli e il Genoa, per diversi motivi. Il Milan e l'Inter potevano fare operazioni a patto che vendessero determinati calciatori e abbassassero il tetto in gaggi, diciamo, della rosa. Lo hanno fatto entrambe. Credo che il Milan puntasse molto anche sull'operazione Robinho per accumulare un tesoretto poi da investire su un grosso nome. Quell'operazione non è andata in porto e non credo, per esempio, alle offerte del Zenit per Abate, 10 milioni, insomma, sembrano offerte un po' troppo generose. E quindi in questo momento il Milan ha un piccolo tesoretto che farebbe molto meglio, come dire, a buttare nel bilancio come attivo per abbassare ulteriormente il deficit. E tutti i nomi che abbiamo detto e fatto in questa trasmissione, sulla base di quanto è stato lanciato nell'etere in questi giorni di mercato, credo che sia frutto più di tentativi fatti da Galliani, che ha fatto dei miracoli nelle precedenti operazioni di mercato. Penso al caso Nocerino, alla stessa operazione di Ibra, strappato a poco più di 20 milioni a Barcellona. Quando un anno fa era fatta, era quasi fatta. Poi arrivò il Niet perché non si voleva cedere patto al Paris Saint Germain, quindi anche quella è un gioco. Quella fase lì, quella operazione lì, cioè l'incastro Tevez-Pato, credo sia stata, come dire, un po' uno spartiacque per il Milan anche dal punto di vista degli equilibri in società. E in questo momento, ripeto, mediaticamente c'è l'esigenza di portare un grosso nome e dall'altro si deve fare i conti con la cassa, ma non semplicemente con la mancanza di risorse, con quello che è un processo virtuoso che è stato intrapreso in questi anni e che sarebbe davvero un peccato interrompere, appunto, prendendo magari, non so, Drogba e dandogli 10 milioni per un anno e mezzo. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti. A lei. Niente, sono interista. Sì, e non fa niente. Volevo fare una premessa. Spero che il presidente ieri abbia visto la partita tra due squadre, secondo me, imbarazzanti, perché al di là che anche la Roma, sì, poteva fare tanti gol, ma secondo me è stata proprio una partita che ha messo in luce due squadre proprio con tanti problemi, diciamo. Sì. Spero che si renda conto che serve veramente come il pane uno in mezzo al campo, arrivare almeno terzi, provare ad andare avanti in Europa League, cercare di vincere la Coppa Italia, perché se tutti dicono, criticano Cambiasso e Zanetti, che comunque giocano ancora, ma se i ricambi sono Mudingai, questi qua vanno avanti a giocare fino a 80 anni, cioè bisogna comunque prendere veramente un centrocampista di livello, perché anche ieri il povero Guarin continuava a correre come un disperato, però cioè, molto disorganizzata, confusionaria come cosa la vedo. Spero che comunque qualcuno arrivi al più presto, perché non può andare avanti così la situazione. Io sono d'accordo, l'Inter, ma tra poco giro la palla a Marco Bellinazzo. L'Inter ha risparmiato, ha incassato e risparmiato sul monte stipendi cedendo Sneijder al Galatasaray, segue sempre la linea del fair play, però viva Dio, ogni tanto bisogna comprare anche qualche giocatore forte, perché se no, appunto, dice l'ascoltatore, vai avanti con Zanetti altri 40 anni oltre a quelli che ha. Già che ci siamo, sentiamo le voci di prima di rispondere, di Zeman e Stramaccioni dopo la partita di ieri sera. Abbiamo anche oggi ho avuto più occasioni rispetto all'Inter, però non li abbiamo sfruttati, poi siamo calati un po' fisicamente perché il primo tempo abbiamo speso tanto e l'Inter ci ripartiva. Abbiamo cercato anche di proporsi, però non siamo riusciti a fare un altro gol. Globalmente l'Inter mi è piaciuta anche perché soprattutto nel secondo tempo secondo me ha fatto quello che doveva fare e la Roma era partita ancora una volta molto forte. Noi anche a causa delle diverse assenze in attacco io ho optato per giocare con Guarin a ridosso di una punta e secondo me nell'arco dei 90 minuti è poi una cosa che ci ha dato dei benefici, perché sia lui che Palacio sono stati secondo me i due terminali più pericolosi. La qualificazione secondo me resta aperta anche perché il ritorno si gioca ad aprile e da qui a là possono ancora arrivare i Maia, magari con un possono po' di, cambiare tante magari cose. Magari con un po' di ritardo. Senti, l'Inter ha incassato con Sneijder, ha ceduto, ha risparmiato, eccetera, eccetera. Poi si va a parlare di Schelotto, con tutto rispetto, di giocatori così. Vedi Carlo, anche lì per quanto riguarda l'Inter partiamo da un meno 80 di giugno, meno 80 milioni il bilancio di giugno. È stato fatto molto, è stato intrapreso un percorso anche qui di riduzione degli ingaggi e l'operazione Sneijder si lega in quest'ottica, per quanto sia stata gestita malissimo dal punto di vista mediatico. È chiaro che senza Champions è anche sportivo, senza Champions il prossimo bilancio insomma sarà ancora fortemente in rosso, anche se in miglioramento, e allora a quel punto, e senza Champions peggio ancora se non va ancora in Champions, ecco. Però sono tante le squadre che sono appese a questa speranza, il Milan, la Roma, l'Inter, se non andranno in Champions l'anno prossimo la vedo davvero dura. È chiaro che quei soldi che si sono ottenuti dalla cessione di Sneijder, 7,5 milioni, e i risparmi sugli ingaggi, che però non sono un tesoro in più perché, ripeto, vanno a ridurre il deficit potenziale l'anno prossimo, dovrebbero essere investiti su un giocatore che però per esempio non è Paulinho, di cui si parla tanto, perché Paulinho è un Guarin leggermente un po' più difensivo, non è quella la risposta che ci vorrebbe. È un mediano. Voglio dire, io credo che al di là della mancanza dei soldi di cui stiamo parlando, vedo anche scarsa capacità in generale nei selezionatori italiani di talenti, perché e l'operazione Pogba ce lo insegna, la Juve, ci sono in giro forse ancora alcuni giocatori che puoi prendere risparmiando e magari gli devi dare un qualche mese di ambientamento, ma ti possono garantire un rendimento, considerando il rapporto tra qualità e costo, accettabile, senza dover spendere cifre folli che le squadre italiane non si possono più permettere. Dunque, dobbiamo fermarci per la borsa, ma Paolo dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Genta. Stia lì, che sentiamo insieme la borsa, che magari ha un sacco di azioni lei. grazie, ha un sacco di azioni? No, ne ho poche, fortunatamente. Ne ha poche, ma magari sono salite. convocati. Dunque Berlusconi, per la precisione, ha detto non arriveranno né Kakà né Balotelli, non è possibile giocare al Monopoli di questi tempi. Queste sarebbero le parole del proprietario del Milan. Paolo dalla provincia di Perugia, mentre Marco Berinazzo del Sole 24 Ore è qui con noi. Ha sentito qualche notizia interessante dalla borsa per le dalla sue tasche? Dalla borsa no, ne ho avute no. Ieri negative ma non positive oggi. E allora senta, è come il calciomercato. Chiamo per avere da lei una valutazione sul giocatore dell'Inter, Guarin, perché io dopo aver visto la partita di domenica e quella di ieri sera, sì, sono convinto che questo giocatore, che ha delle potenzialità sicuramente, ma debba ancora crescere molto, quindi non mi trovo d'accordo con le lodi che sono state tessute in questi giorni dai media sportivi, in quanto Guarin è vero, ripeto, che ha degli spunti interessantissimi, ma perde un numero di palloni incredibili e sempre per cercare il dribbling. Ieri sera, come domenica, per 4 volte di seguito, con uomini liberi, lui si è andato a intestardire su dribbling che ha puntualmente persi. E questo non è stato fatto notare da nessun presunto giornalista, conoscitore, sì, di calcio. Se lei riguarda la partita di domenica di ieri sera, vedrà esattamente quello, no, che io le ho testa detto. Per cui diciamo, speriamo che questo giocatore cresca e speriamo soprattutto che Stramaggioni faccia capire a un giocatore così giovane che quando ci sono giocatori liberi la palla va, guardi, passata. Paolo, Guarin è una delle poche risorse vere che ha l'Inter per il futuro in questo momento, poi crescerà, poi troverà magari anche un ruolo che non so se senta particolarmente suo quello che Stramaccioni in questo momento gli assegna, però se critichiamo Guarin nell'Inter, allora siamo fritti, almeno siete fritti voi interisti, perché non mi sembra che in quel centrocampo così labile, così anziano, così da rifondare, ci sia molto di meglio. Si parte da, come disse un giorno Guarin, Mourinho, Guarin più altri 10. Lo disse per Ibrahimovic, però in questo caso vale lo stesso discorso. Saluto e ringrazio Vincenzo Martucci e cambierei un attimo argomento, anche perché Marco Berinazzo è molto appassionato di tennis, assolutamente, Marco? Ciao Vincenzo, buongiorno, come va? Buongiorno, come va? Va benissimo, soprattutto, beh, benissimo, siamo un po' tesi, perché la finale di questa notte di Sara e Robertina ci tiene sulla corda. Ah, eccitate per il doppio o eccitate per l'Italia? Qual è la componente più forte? Eccitati per tutte e due le cose, Vincenzo Martucci. No, io scherzo. Sicuramente poi dopo un Australian Open che a parte Seppi non ci ha regalato grandi soddisfazioni, sicuramente questo è un segno importante. Vincenzo, ci sei? È finito. Ah, Vincenzo Martucci è cascato, ma lo ripeschiamo. È cascato come molti tennisti italiani, ahimè, tranne le... Sono cascati tutti al primo turno, poi però noi italiani in coppia lo facciamo meglio. È evidente, perché ci sarebbe da riflettere su questa, su questa peculiarità del tennis italiano. E allora, riflettiamoci con Vincenzo Martucci che è tornato. Sono caduto ma sono tornato. Non ti sei fatto male? Perché... Dicevo appunto che sicuramente è la conferma che queste ragazze sono veramente arrivate a un livello molto importante, cioè confermarsi subito al primo torneo dell'anno importante, al primo slam, è molto significativo. Ricordiamo che queste due ragazze l'anno scorso hanno vinto 2 titoli dello slam, sì, e sono andate in finale proprio di Australian Open. Ecco, questa è la cosa più significativa. E poi nella loro scia sta succedendo qualcosa di importante, perché anche i maschi hanno, appunto, dato dei segnali importanti. Ecco, poi, ma perché noi italiani in coppia lo facciamo meglio? Fognini e Bolelli oggi battuti in semifinale dal numero 1 del ranking mondiale, cioè i gemelli Bob e Mike Brian statunitensi, in 3 set, quindi una partita anche combattuta, però bravi anche loro. Beh, guarda, dobbiamo dire una cosa, non me ne vogliono i telespettatori, 2 buoni singolaristi secondo me sono sempre più bravi di una grande coppia di doppi, di specialisti di doppio. Questo è dimostrato anche dalla Coppa Davis, ogni volta che 2 buoni singolaristi si mettono insieme battono i più forti, perché hanno qualcosa in più i singolaristi. Obiettivamente i Brian, uno non ha proprio classifica di singolare, l'altro gioca un match ogni 2 anni. chiaramente giocano sempre quel gioco lì, sono perfetti, sono sincronizzati, sono, questi due sono addirittura gemelli, quindi figurati, sì, però fanno un altro sport. Sì, ecco, bravo. Quindi due singolaristi come Bolelli e Fognini, che hanno delle qualità, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di ottimi giocatori che varrebbero tranquillamente i primi 20-25 del mondo, e che se non sono lì è solo perché hanno dei limiti psicologici, di tenuta nervosa, altrimenti tecnicamente sono più che capaci, e in più sono bravi anche il doppio, quindi ecco, non sono lontanissimi tecnicamente. Poi chiaramente subentrano altri fattori, l'abitudine a giocare insieme, la specialità del doppio, un po' di tensione, un po' di stanchezza, ecco, ma ci siamo. Io sono convinto che comunque sia questo discorso che si fa sui due che giocano insieme e che gli italiani lo fanno meglio, viene bene, comunque fa morale, perché è uno sport che ha bisogno di pochissimo. Si è visto appunto con la Schiavone che vince un titolo dello Slam e l'anno dopo fa la finale, traina altre cose, la Pennetta che entra fra i primi 10 del mondo. Tutto questo fa bene. Adesso abbiamo questo ragazzo Filippo Baldi che sulla scia dell'altro italiano forte Gianluigi Quinzi batte il numero uno del mondo, sempre lì in Australia, e va in semifinale, e quindi tutto questo, tutto fa brodo, tutto secondo me verso, deve tendere a un famoso messia che dovrebbe essere un altro Panatta, che farebbe tornare il boom per uno sport che io dico sempre è bellissimo. Sì, messia o Godot, poi ognuno la vede come vuole. Vincenzo, un ultimo commento sulle finali attese del singolare. Quella femminile è già scritta, Azarenka con la cinese Lina, che è grosso modo una sorpresa. Djokovic che stira Ferrer in modo facilissimo, Federer che affronterà Murray, che invece ieri suda 100.000 magliette per battere Tsonga a quinto set. Beh, guarda, le donne intanto, io penso che a questo punto Lina sia la favorita rispetto ad Azarenka. Azarenka non mi è piaciuta affatto con questa sceneggiata che ha fatto con una ragazzina di 19 anni, si è fatta prendere dal panico davanti a 5 match point, una partita finita. Ci fa pensare che una come Lina, se dovesse rigiocare, non dico tanto, ma a livello col quale ha giocato contro Sharapova, secondo me è più forte. Il limite di Lina è sempre stato psicologico, ma tecnicamente vale una Azarenka. E per quanto riguarda gli uomini, insomma, come tutti quelli che amano questo sport, essendo un esteta, è un pochino di tifo dentro di me per Federer, lo faccio sempre. Sì. Certo, se battesse Murray, la finale con Djokovic sarebbe una finale eccezionale, altrimenti, come dici tu, è una finale annunciata dall'inizio. Noi diciamo che i due protagonisti dell'anno scorso, Murray e Djokovic, possono cominciare aprire una nuova grande rivalità dopo quella che c'è stata Federer-Nadal, dopo il Nadal-Djokovic si passa a un'altra grande rivalità, che è bello per il tennis e nello stesso tempo si consente un pochino restrittivo, perché quando il numero Ferrer, il 5 della situazione, viene ridicolizzato dal numero 1, come è successo stanotte, che 6-2, cioè una cosa un po' è troppo grande la distanza fra i primi 3-4 e gli altri. Sono d'accordo, grazie Vincenzo. Un abbraccio, sempre un piacere. Per chi tifi, Marco Bellinazzo? Beh, io ho sempre apprezzato Federer, avendo anch'io qualche velleità da esteta, dall'amante del tennis, come di altri sport. Insomma, sono quelli giocatori che preferisco. Che ti eccitano di più. Io tifo Djokovic. Mi è molto simpatico perché è un personaggio estroverso, spesso fuori dalle righe. Gioca un gran tennis, ha fantasia, ha faccia tosta. Quindi io dichiaro il mio tifo per tra i tre più bravi Murray no, sicuro, ecco. Ma in ogni caso io mi riferivo anche poi a Nadal è quello che mi sta più antipatico per vari motivi, nella maniera più diciamo, quindi tra Federer e Djokovic, insomma, va bene comunque. Murray invece è noioso come guardare l'erba che cresce. Federer sta antipatico a tutti noi quanti. Allora, finale Federer Djokovic e vinca il migliore, speriamo Djokovic, almeno dal mio punto di vista. Allora, traffico, poi Andrea da Reggio Emilia, 800 24 00 24, c'è ancora spazio per le vostre voci, le voglio sentire, a dopo. Tasse, non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse è tasse? Tutti convocati. Allora, prima di Andrea Reggio Emilia, Antonio Piacenza, Andrea Provincia di Varese, tutti convocati all'800240024, Marco, ti chiedo di rifare di nuovo la faccia da fiscalista e rispondermi a questa domanda che ci inviano anche via SMS e che va chiarita. Onestamente, che differenza c'è tra fisco italiano e spagnolo? Beh, allora, cercherò di essere breve, perché Galeani ha parlato di questa differenza di aliquote, il 23% in Spagna, il 24% in Spagna e il 43% in Italia. Diciamo che l'aliquota agevolata della legge Beckham, che fu introdotta nel 2005 in Spagna, non esiste più dal 2010, ma vale per tutti i contratti, come quello di Cacà, stipulati prima del 2010. Di conseguenza, per citare un solo aspetto, i 6 milioni pagati eventualmente che il Milan voleva pagare da Kakà equivalgono ai 10 milioni che gli dà il Real Madrid in termini di peso sul bilancio delle società di calcio, in quanto le società di calcio pagano anche la quota di IRPEF dei calciatori. E quindi evidentemente il peso diverso della fiscalità ha avuto un'incidenza nella trattativa, ma non è stato tanto un problema di aliquote quanto un problema legato alla minusvalenza che il Real Madrid avrebbe dovuto mettere subito a bilancio di circa 30 milioni a fronte di un analogo risparmio d'imposta che però vale sui tre anni. È chiaro che, fatti i due conti, i revisori dei conti appunto del Real Madrid hanno detto a Florentino Pérez, insomma, fatti pagare almeno 15 milioni perché più o meno così andavano in pari, e 15 milioni il Milan su Kakà non può spenderli. Perfetto, chiarissimo. Andrea, Reggio Emilia. Sì, buongiorno intanto. Innanzitutto, io volevo fare questa domanda. È un paio di giorni che sto leggendo da tifosi interista che Coutinho è sul mercato. E io mi domando, da interista, come si può vendere Philippe Coutinho, che è l'unico che ha mercato nell'Inter, che potrebbe dar molto di più essendo un giovane, e non vendere Alvarez e vari altri giocatori che non hanno mercato. Anche Alvarez può... è sul mercato, attenzione. Anche Alvarez, sì, è sul mercato. Però non lo vuole nessuno. Nessuno, una ragione ci sarà. No, la cosa sorprendente piuttosto è che Coutinho sia sul mercato, sia un giovane che vale, ma nell'Inter non gioca mai. E questo, me lo domando anch'io. Perché non puntare su Coutinho, come si era tentato di fare ad inizio stagione? È stato insabbiato tra l'arrivo di Cassano, eccetera, eccetera. Non lo so, è abbastanza misterioso questo, evidentemente l'Inter non ci crede fino in fondo, e se arriverà un'offerta congrua, sentivo l'altro giorno 12 milioni da parte del Liverpool, non so se sia vero o falsa, l'Inter lo cederà. Evidentemente, per ragioni che mi sfuggono, in questo giocatore non crede fino in fondo. Antonio Piacenza. Sì, buongiorno. Senta, io volevo tirare le orecchie a zio Fester Galliani, perché da milanista veramente, quando lo sento che si riempie la bocca dicendo che ha preso lui il Sharawi, o ha fatto esordire, o ha fatto in modo di fare esordire De Sciglio, insomma, fa di quei due giovani i suoi fiori all'occhiello. Mi sembra impossibile che lui si dimentichi delle operazioni Taivo preso a zero, o Traoré quest'anno, che io non so cosa ci faccia al Milan. Cioè, per essere da Milan non bisogna essere parametri zero, bisogna essere giocatori da Milan. Oppure Mesba, cosa deve aprire a fare quei giocatori lì? E un'altra cosa, io volevo il rimborso di tutte le gazzette dello sport del mese di agosto, perché ho fatto un mese a leggere di Yang Gambiwa al Milan, o quasi, e adesso lo scopro che l'ha preso Newcastle. Stesso discorso, tre anni fa per Dzeko al Milan, sì. 90 giorni di prima pagina, Dzeko al Milan, e poi Dzeko neanche ci è passato per Milano, forse. E adesso la stessa storia per Kakà. Adesso sì. Per Kakà è uguale, è un mese che leggo di Kakà al Milan e di Balotelli al Milan. Vorrei il rimborso se queste operazioni non vanno in porto. Non lo so, giriamo la sua e torniamo all'inizio della puntata. Abbiamo spiegato come mai si creano questi miraggi giornalistici, e poi si deve fare invece i conti con soldi. Ma che queste non operazioni ci sono. Francesi, Taiwo, Traoré, gente. Beh, sono parametri zero, sono giocatori che puoi prendere con ingaggi da 200-300 mila euro all'anno, e sperare che qualcuno di questi, come dire, fiorisca. E quindi a quel punto hai fatto una quindi bella operazione. Ci affidiamo alla speranza. Ho capito. Parlami prima di Luca da Torino, Andrea Provincia di Varese, di questo ranking dei fatturati, che è comparso oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma so che ce l'avevi in mano anche tu. per il Sole 24 Ore. Sì, è tutto sul il consueto rapporto Deloitte sui fatturati di primi 20 club, sì. Tutti i dettagli naturalmente per i curiosi e per chi vuole capire perché poi certe cose di mercato vanno in quella maniera che abbiamo raccontato e non come si scrive sui giornali. Tutti i dettagli sono sul mio blog Calcio e Business e sul sito del Sole 24 Ore naturalmente. Ci dicono cosa? Che il Real Madrid fattura oltre 500 milioni e il Barcellona oltre 483 e che dietro queste due squadre che guidano la classifica dei club con il maggiore giro d'affari ci sono poi le solite squadre inglesi, cioè United, Monaco, Chelsea, Arsenal e il Bayern Monaco, che non a caso ha preso Guardiola, e che al settimo posto è arrivato il City con un incremento in questi anni del 70% del fatturato, il Manchester City. Strano. E stranamente, insomma, è lì. Ci sono però anche cinque squadre italiane, qui la buona notizia: il Milan è all'ottavo posto, la Juventus è arrivata al decimo posto, è tornata nella top ten, c'è il Napoli che è al quindicesimo posto, l'Inter al dodicesimo, la Roma al diciannovesimo. E questa è una classifica che è abbastanza statica, devo dire la verità, negli ultimi anni, ma che nei prossimi anni non sarà più tale, perché anziché avere cinque squadre italiane avremo tantissime squadre inglesi e tantissime squadre tedesche, perché dal prossimo anno le squadre inglesi hanno ottenuto un nuovo contratto delle TV con un incremento del 70% e le squadre tedesche del 50%. Questo significa che appunto i dislivelli a cui diciamo ci stiamo purtroppo abituando, il fatto che certi giocatori di nome finiscano sempre in altri campionati e non nella penisola, purtroppo a me nei prossimi anni diventerà quasi scontato, non ne parleremo neanche più con meraviglia, a meno che qualcuno in Lega finalmente non si svegli e capisca finalmente che bisogna prendere esempio dalle prassi virtuose di altri campionati e cominciare magari a costruire qualche stadio di proprietà, ma non solo sulla carta, cominciare a fare meglio il marketing e il merchandising e potremmo insomma parlare di tante altre cose, insomma. Di aspetta e spera. Intanto noi ne parliamo come grilli parlanti, insomma, stiamo lì a segnalarle la necessità di queste riforme e qualcuno prima o poi, anche per stanchezza, proverà a farle magari, chissà. Luca Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la trasmissione. Grazie. Sì, io volevo solo dire, riallacciandomi al discorso del vostro esperto, che appunto il campionato italiano ormai veramente è diventato una tristezza, perché è diventato ormai il cimitero degli elefanti. Vedere no, gli secondo me è quasi il contrario, è diventato il regno della speranza, perché vengono presi un sacco di giocatori giovani che non conosciamo fondamentalmente, ma ogni tanto qualcuno di questi capiamo che è buono. Poi va via, ovviamente. Ma sì, ma io capisco forse una politica tipo quella dell'Arsenal, che investe tanto sui giovani, però va a prendere veramente i più forti. Comunque si mette in mezzo anche qualche campione come Podolski, Walcott, quella gente lì, e mi sta anche bene. Ma un discorso come vuol fare il Milan, prendendo, sperando di trovare dei fenomeni, che gli altri sono mica scemi, cioè se fossero tutti questi fenomeni in giro li prenderebbero il Manchester United come le altre squadre che l'hanno preso. Beh sì, intanto il Milan ha preso il Sharawi e il Manchester United ha perso Pogba, quindi... Ma l'ha perso, però non è che volevano mandarlo via, lui che se ne è voluto andare. La giri come vuole, però insomma mi sembra che il trend sia inverso a quello che dice lei, cioè non il cimitero degli elefanti, ma il regno dei bambini, il kindergarten, sperando che qualcuno di questi bambini sconosciuti e che arrivano a poco prezzo possa avere il talento, il regno della fantasia, pane, amore, tulipani e ragazzini. Beh, la differenza fondamentale, Carlo, è questa: se hai 400 milioni di fatturato come lo United o 300 milioni come l'Arsenal, puoi investire 20 milioni sul settore giovanile, anche se ne perdi qualcuno sei sicuro che avrai sicuramente linfa per le squadre. Se in Italia si continua a investire al massimo, nei casi migliori, 4-5 milioni sul settore giovanile, è chiaro che sarai costretto a comprare giovani, diciamo inesplorati, giovani che non si conoscono, e a sperare che qualcuno fiorisca che ti tiri fuori, diciamo, come dire, dai guai. Ma è una speranza, non è un investimento. A passare le notti su YouTube, caro Marco Bellinazzo, a capire chi sono sti qua. Senti, io ti ringrazio, è sempre un piacere. Grazie a voi, a presto. Andrea dalla provincia di Varese, domani a tempo? Sì. Allora sarà il primo convocato di domani, come è successo oggi per Francesco. Ci sentiamo domani naturalmente. Ringrazio Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e chiudiamo con un ricordo doveroso. Gianni Agnelli, 10 anni senza di lui. Ciao a tutti. Siamo ai campionati del mondo di 6 anni fa in Argentina. Io ricordo telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Poi dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei.